la grande tartaruga con i tetti a scaglie grigie. Si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani certe volte anche per me. Sulla strada che va al porto, dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un vu comprà. Tra un negozio di bottoni, un tizio che si fa, c'è un ufficio senza targa e senza età. Ed è l'ufficio delle cose perdute, quelle che son sparite in fondo a qualche momento chiuso. Ed è un ufficio pieno di vecchie cianfrusaglie, giorni poco usati e di candeline di un'altra età. Sono andato lì a cercare i capelli che ho perduto, il sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché. Ma dentro quel momento non c'è nel mio giardino l'albero che ho piantato 8 anni fa per sempre. Ma nell'ufficio delle cose perdute devo, in cambio dei 20 anni, ridare tutto quello che ho. E ritorno piano a casa con le rughe ed i pensieri. Lascio lì i miei 20 anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei. Say.